Mi capita abbastanza spesso di essere il primo a parlare, il che, se da un lato non mi lega a ciò che verrà detto dopo, mi pone nella posizione di dover inventare qualche cosa. Ma più che inventare, visto che si parla di memoria, ricorderò qualche cosa invece. Diversi anni fa, quando ero a Trieste, durante una conferenza presso la sede dell'Associazione delle Donne Ebree Italiane di Trieste, un noto scrittore ebreo, oggi scomparso, Giorgio Bassani, parlò lamentando, criticando, a suo dire, questo noioso ebraismo metastorico. Una delle signore presenti, gli chiese che cosa intendesse dire, a che cosa si riferisse. E lui spiegò: ma certo, questo fatto che nell'ebraismo si commemorano fatti avvenuti 3.000-3.500 anni fa, come se fossero attuali, come se fosse una cosa avvenuta stamattina. Ma insomma, bisogna aprirsi alla realtà circostante, muoversi, non rimanere legati così al passato. Questa signora gli disse: grazie, temevo di avere capito bene, avevo ragione. La tradizione ebraica è fatta proprio del fare memoria. E l'episodio a cui faceva riferimento Bassani era chiaramente il ricordo dell'uscita dall'Egitto, la celebrazione del Pesach, della Pasqua ebraica. Ma certamente se noi non ricordassimo questo evento particolare, la nascita stessa del popolo ebraico come popolo, oggi non avremmo nessuna tradizione, nessun testo sacro, perché nessun popolo può ricevere una legge se non è libero. Anzi, tutte le ricorrenze di cui è costellato il calendario ebraico, sono fatte tenendo presente la memoria dell'uscita dall'Egitto, che è un precetto positivo. Dobbiamo ricordare l'uscita dall'Egitto ogni giorno, mattina e sera. Ma non solo questo. Se noi guardiamo nel Deuteronomio, quando Mosè tiene una serie di discorsi prima di accomiatarsi dal popolo, lui insiste molto sul valore della memoria. In effetti, domanda davvero riguardo ai primi giorni che c'erano prima di noi, da quando Dio ha creato l'uomo sulla terra, da un'estremità all'altra del mondo. È mai successo che? Oppure, nella cantica finale, chiedilo a tuo padre, te lo narrerà, ai tuoi anziani e te lo diranno. Chiedere, andare a ricercare ciò che è avvenuto prima per capire se stessi. Non solo, ricordare. Ricordare come se si fosse personalmente vissuta quell'esperienza, proprio nella celebrazione del Seder di Pesach, della cena delle prime sere di Pasqua, viene ribadito: in ogni generazione l'uomo deve considerare se stesso come se fosse personalmente uscito dall'Egitto. Ma come si fa a ricordare? Di nuovo la Bibbia ci viene incontro. La Bibbia usa due termini ben precisi. Zachor, ricorda, e al tishkach, non dimenticare. Nel linguaggio corrente sembrano sovrapponibili. In realtà non lo sono, altrimenti la Bibbia, che è molto precisa nel linguaggio, non avrebbe usato termini diversi. Il non dimenticare consiste molto semplicemente nel tenere in mente determinate cose. Zachor è qualche cosa di più. Che cosa? Per capirlo potremmo rifarci al Decalogo. Come probabilmente qualcuno ricorderà, nella Bibbia il Decalogo viene riportato due volte. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, e nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, se non sbaglio. La prima volta è la narrazione di quello che è avvenuto in quella circostanza eccezionale della teofania, della manifestazione della presenza divina sul monte Sinai. La seconda volta nel Deuteronomio siamo di nuovo all'interno di questi di Mosè, da lui rivolti al popolo. Però ovviamente se si tratta del Decalogo, cioè delle parole pronunciate da Dio davanti a tutto il popolo di Israele, le due versioni dovrebbero essere esattamente identiche. In generale lo sono. Solo su un particolare questa identità viene a mancare. Ed è a proposito del comandamento relativo al sabato. Nell'Esodo è scritto: ricorda il giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tua opera, ma il settimo è sabato dedicato al Signore tuo Dio, eccetera. Nel Deuteronomio è scritto: osserva il giorno del sabato per santificarlo come ti ha comandato il Signore tuo Dio. 6 giorni lavorerai, eccetera. La prima domanda che ci si può porre è: qui qualcuno ha sbagliato. Chi? Sembrerebbe facile. Ah, nell'Esodo è una narrazione di un avvenimento, è così come tutto il popolo l'ha percepito, quello è quello autentico. Deuteronomio, Mosè a distanza di 40 anni, poverino, era vecchio, aveva 120 anni, qualche colpetto poteva anche perderlo. Ma se così fosse, innanzitutto questo sarebbe in contraddizione con quello che dice il Deuteronomio nell'ultimo capitolo, che Mosè non aveva né l'occhio indebolito né la freschezza diminuita, cioè era in perfette condizioni psicofisiche, diremmo oggi. Due, che ne risulterebbe che una parte della Bibbia è meno autentica rispetto ad un'altra. Allora una parte non sarebbe ispirata da Dio. Ci sarebbe un problema da questo fatto. Ed ecco che la tradizione, il Midrash rabbinico, che dobbiamo ricordarci risale a un metodo di interpretazione, non ad un'interpretazione, ad un metodo interpretativo insegnato da Dio a Mosè sul Monte Sinai, quindi è sicuramente un metodo autorevole. Il Midrash ci dice una cosa particolare. Ci dice che le due versioni del Decalogo furono pronunciate simultaneamente da Dio. Nessun essere umano può pronunciare due parole diverse con la stessa emissione di fiato. Ma Dio può. E quindi Zachor ricorda e Shamor osserva hanno la stessa autorevolezza. Sono due facce della stessa cosa. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che per fare Zecher, memoria dello Shabbat, del sabato ebraico, bisogna fare Shemirah, osservanza, cioè compiere determinate azioni. La memoria quindi, per essere qualche cosa di attivo, di costruttivo, deve tradursi in una azione che si fissa nel rituale della vita della persona e quindi non fa memoria, ma diventa memoria. Ecco perché l'osservanza dei precetti diventa lo strumento attraverso cui la memoria non è semplicemente la memoria di qualche cosa di lontano, di passato, ma diventa qualche cosa di presente. In ogni generazione ognuno deve considerarsi personalmente uscito dall'Egitto. Questa è il zecher, la memoria nella tradizione ebraica, che è fondante perché collega la vita della singola persona con quella e con la vita e con le esperienze dei suoi antenati. E quindi collega la mia esperienza quotidiana con l'esperienza di tutte le azioni eccezionali, i miracoli, i prodigi cui abbiamo assistito. E quindi ci collega in maniera molto forte all'idea di Dio. Quindi una memoria che si fa azione quotidiana, metastorico, ma che salva chi la vive dalla storia. Cristiani, abbiamo 2000 anni di storia in meno e quindi dovrei essere più breve, non so se ci riuscirò, ma resterò nei 20 minuti senz'altro. E devo dire che alcune delle cose che ha detto il rabbino Richetti sono molto importanti anche per quello che vorrei esprimere. La memoria e l'identità in prospettiva cristiana. Anzitutto direi che viviamo un po' nel tempo, nell'epoca della non memoria. Si tende a dimenticare facilmente, siamo passati da una cultura di cui gli ebrei sono stati maestri della memoria, del saper memorizzare, ecco, l'intera Sacra Scrittura, l'intera Torah veniva vissuta, un San Paolo non citava da un libretto, ma citava a memoria tanti passi, e la conosceva e si diceva l'ebreo deve essere la Torah vivente. Ecco, questa cultura della parola e della memoria è stata ampiamente soppiantata dalla cultura dell'immagine, dalla cultura della visione, della televisione, e da un'epoca di non memoria, si dimentica facilmente. La cultura della memoria è durata finché le nonne ci hanno raccontato le fiabe, e per dirlo adesso un po' grossolanamente, i cartoni animati giapponesi hanno ucciso le nonne, le fiabe, la memoria, non solo loro, ma solo per indicare uno dei colpevoli. Viviamo un po' l'epoca della coscienza superficiale, si vive, si naviga in internet, no? Vediamo cosa c'è, non vediamo cosa c'è stato, no? Internet non è tanto proiettato nel coltivare la memoria, internet offre le ultime proposte, bisogna essere up to date, bisogna essere al passo con i tempi, bisogna essere in e non out, la memoria viene vista come qualcosa di out, riferito al passato. E nei confronti del mondo che ci circonda vediamo quindi una forte dimenticanza. Non c'è una cultura della memoria. A scuola è addirittura osceno che un maestro pretenda di insegnare una poesia a memoria. Viene quasi denunciato, violenza, bisogna essere creativi. Uno deve esprimere quello che ha dentro e non imprimere qualcosa dall'esterno. Si è arrivati un po' a un ribaltamento di certi criteri. Eppure il fare memoria del cristiano, il memento cristiano, no? È un qualcosa che riguarda non solo l'ambiente immediato che mi circonda, la Umwelt, l'ambiente, diciamo così, della natura, l'ambiente ecologico, e neanche solo la Mitwelt, l'ambiente umano che mi circonda. Il memento cristiano riguarda sempre due dimensioni che attraversano la storia, cioè la Vorwelt e la Nachwelt, il mondo che mi ha preceduto e il mondo che mi succederà. Perché nessuno di noi si è fatto da solo. carità, anche in tempo elettorale qualche politico si presenta come un deus ex machina che si è fatto da solo, è un bugiardo, nessuno si è fatto da solo, ognuno costruisce su una base previa e chi dimentica e nega questa base e si proclama di essere il punto d'inizio è un menzognero. Abbiamo tutti una Vorwelt. Se viviamo in questa Mittwelt, in questo mondo di uomini d'oggi, è perché abbiamo alle spalle una tradizione che non è soltanto un insieme di verità da trasmettere, di verità astratte e concettuali, ma è un flusso vivente, tradere, trasmettere, far passare. Facciamo parte di un flusso vitale. Non dobbiamo dimenticare la Vorwelt che ci nutre e non dobbiamo essere dimentichi della Nachwelt che seguirà. La nostra memoria deve essere memoria di ciò che è stato e di chi è stato, ma deve essere anche memoria di chi sarà. Faccio un esempio molto concreto. Io non posso inquinare, perché devo avere memoria dei miei figli, nel caso mio specifico, dei miei nipoti, che dovranno abitare in questo mondo. Non posso lasciar loro un mondo inquinato. Quindi devo avere la memoria di ciò e di colui che è stato e di ciò e di colui che sarà. La sostenibilità per i cristiani nasce da una coscienza della memoria, da una responsabilità di tenere vivo ciò che di prezioso emerge dal passato, ma anche di trasmettere qualcosa di vivo alle generazioni a venire. Questo memento cristiano, il far memoria cristiano, fonda l'identità cristiana perché invita a guardare un po' più in alto e un po' più in profondità di quanto non si sia sollecitati a fare normalmente dai media o dall'educazione. Cioè, il memento cristiano, il ricordati cristiano, invita a prendere coscienza della Überwelt e della Innenwelt. Invita a ricordare che c'è un mondo sopra di noi, chiamiamolo la sfera del divino, e c'è un mondo dentro di noi, la nostra interiorità, la nostra intimità, la nostra identità. Ebbene, ricordare, no? In italiano, ricordare, riportare al cuore, cor cordis, no? Ricordare vuol dire riportare al cuore, coinvolgere il cuore, non solo la mente, nel processo del tenere vivo ciò che dalla tradizione emerge. Ricordare significa prendersi a cuore ciò che è stato e ciò che sarà, ciò che vive sopra di noi e ciò che vive dentro di noi, nella profondità del nostro mistero di esistere. E anche in tedesco c'è una espressione molto simile, Erinnerung, Erinnerung, innerlich, no? Verinnerlichung, interiorizzazione, il ricordo, ricordare è sempre un portare nell'intimo proprio, non soltanto immagazzinare, no? Salvare, come col computer adesso, salvo in un file che poi posso anche cancellare, no, se io ricordo, porto al cuore, non cancello. La Erinnerung significa intimizzare, portare nel profondo del mio essere qualcosa. È un po' quello che noi cristiani troviamo simboleggiato anche nella immagine della croce. La croce congiunge la Überwelt e la Innenwelt con l'asta verticale, congiunge la Vorwelt e la Nachwelt, il mondo precedente, il mondo che verrà, con la sua sbarra orizzontale. C'è una dimensione di verticalità attraverso la storia, una dimensione di contemporaneità. È un qualcosa che ci invita a trovare in Dio la coincidenza della Überwelt e della Nachwelt. Il mondo che sta sopra di noi, il mondo che verrà dopo, sono, si dice a volte, in mente Dei. Dio ha presente questa dimensione, Dio la conosce. Nella misura in cui noi facciamo memoria della storia di salvezza, della storia di rivelazione, di Dio che parla nella storia, sappiamo intuire, sappiamo trovare, intravedere questa dimensione della Überwelt che di solito ci è preclusa e sappiamo avere coscienza della Nachwelt che non sempre ci è così presente. E allora su questa memoria anche verticale o se vogliamo diacronica, cioè che attraversa i tempi, siamo invitati dal messaggio cristiano a fare memoria di un Dio che si presenta più volte sia nell'Antico, lo chiamiamo noi, che nel Nuovo Testamento, come il giusto giudice. Per noi fare memoria significa ricordarsi che Dio c'è stato, c'è e ci sarà. Cioè che Dio è il creatore, è il provvidente, colui che accompagna l'uomo nella storia, ma è anche colui che ci aspetta, per così dire, alla fine della storia. anche nel linguaggio popolare si dice non fare i conti senza l'oste, in una maniera molto terra terra, no? E tante volte questo oste l'abbiamo eliminato. Veniamo invitati a vivere il momento presente, dimentichi del futuro. Dimentichi del futuro. Del fatto che la nostra vita ha una fine e se siamo memory, anche un fine. Anche un orientamento, un sin in lingua tedesca. È quello che un collega ben più illustre di Münster, Johann Baptist Metz, ora pensionato, chiama ein eschatologischer Vorbehalt, cioè la riserva escatologica. La nostra storia, ci hanno insegnato i fratelli ebrei, ha un inizio e una fine. Non è un moto perpetuo che andrà avanti con mille reincarnazioni finché trovo la mia pelle giusta, la mia vita migliore e così via. No. Noi diciamo la storia è un processo lineare o a spirale, comunque con un versus, con un sin, con un orientamento, e sta sotto questa riserva escatologica. Dio ci chiederà conto di come abbiamo gestito la storia, di come abbiamo gestito le nostre potenzialità. C'è un giudice. Noi dobbiamo fare memoria di colui che ha creato il mondo, memoria di chi siamo noi nel mondo, ma anche memoria di ciò che sarà la fine. Come vorremmo incontrare Dio, come ce lo immaginiamo, come ce lo aspettiamo. Ho visto recentemente, tornando in aereo da un viaggio, un film con Jim Carrey, Una settimana da Dio. Un film che ho trovato molto interessante, perché è teologicamente corretto, almeno dal nostro punto di vista cristiano. Non l'ho visto. E c'è, glielo consiglio perché è veramente simpatico. E c'è questo giovane che si ritiene un po' iellato e che si sente trascurato, dimenticato da Dio, mentre forse è lui che ha dimenticato Dio. No? Questo giovane che a un certo punto arriva a un palazzone, va verso l'ultimo piano e chiede a un signore nero che sta pulendo i pavimenti dov'è Dio. E questo signore dice sono io, figurati, no? Eppure questo è il paradosso, poi di fatto è quello Dio, no? Dio sarà forse un po' diverso da come ce lo aspettiamo. E diceva il nostro Papa, proprio il 30 marzo del 2000, visitando Wadi Hashem in Israele, il luogo della memoria dell'Olocausto, dove c'è quel vagone su un binario interrotto che si perde nel vuoto e che ricorda le molte vittime, di fatti storici che molti tendono anche a mettere in discussione, no? È tutta un'invenzione sionista, no? La persecuzione, la Shoah, è tutta un'invenzione degli ebrei per farsi compatire, per acquisire potere e così via. Da in quel luogo Giovanni Paolo II ha detto chi elimina Dio dalla storia, dalla coscienza dell'uomo, chi cancella la memoria di Dio, elimina l'uomo. Se elimini Dio, alla fine arrivi a eliminare l'uomo. In nome della libertà che l'uomo rivendica, si cancella Dio e con questo si cancella la memoria di passato e di futuro che rende l'uomo ciò che è, perché l'uomo è l'unico essere dotato di una memoria intelligente, simbolica, cosciente e anche prolettica, cioè che si proietta nel futuro. È un po' quello che padre Balducci chiamava anni fa l'uomo planetario, l'uomo cosciente di ciò che avviene nel pianeta, ma anche cosciente di ciò che è stato e di ciò che potrebbe essere. La planetarietà non si limita alla contemporaneità. La memoria religiosa che noi cristiani cerchiamo di portare avanti dice non dimenticarti di ciò che è stato e non dimenticarti di ciò che sarà. Perché? Perché anche Dio non si dimentica. Un messaggio che troviamo splendidamente nella Torah, no? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Dio che si lancia un'automaledizione, no? Dio non può dimenticarsi di noi. E con che diritto noi ci dimentichiamo di Dio? Gli anteponiamo altre cose più immediate? Allora ecco che per noi cristiani il senso, l'identità della nostra memoria sta nel Nazareno che riteniamo per noi crocifisso e risorto, di cui facciamo la dolce memoria, c'è anche un canto, Jesu dulcis memoria, no? La sua sequela, seguire Lui, è la memoria che ci dà identità. Non è una memoria nostalgica. Non piangiamo sulla sua tomba. Diciamo colui che era morto è risorto. Questa è una particolarità del cristianesimo, ovviamente su cui fratelli ebrei e musulmani non si ritrovano. Però Il succo della nostra memoria sta nel dire, colui che era, sembrava sconfitto dalla storia, dalle leggi biologiche e così via, è ricomparso, si è creato futuro, colui che era stato definito passato, un problema risolto, invece un mistero che non si lascia eliminare. Allora si tratta di saper gestire, secondo noi cristiani, una intelligente Aufhebung della memoria. Aufheben può voler dire due cose, eliminare o conservare. Siamo sempre davanti a questo bivio, cosa eliminare, cosa conservare. Noi cristiani diciamo elimina un po' di rancori, di esperienze negative, di torti subiti, la logica del perdono, della riconciliazione, e hebe auf, e conserva, mantieni ciò che è fondamentale per la tua vita attuale ma anche per il tuo futuro. E qui abbiamo mutuato dai fratelli maggiori, dagli ebrei, l'idea di memoriale. Non solo il far memoria, non solo il commemorare, non solo il celebrare personaggi del passato, ma il fare memoriale, cioè rendere presente, sentire vivo questo Signore risorto che guida la nostra storia. Ecco allora perché, con una definizione di mio amico di Catania, Pino Ruggeri, anche lui docente di teologia fondamentale, amiamo descrivere la teologia come la disciplina che ci aiuta a conservare memoria per conservare identità, ma un'identità in crescita. Pino Ruggeri definisce la teologia come una disciplina che ha tre compiti, deve essere memoria, compagnia e profezia. Memoria nel senso che salva ciò che di vivo, di essenziale ci proviene dal passato, compagnia perché si fa vicina all'uomo di ogni tempo e quindi deve tradurre le intuizioni del passato, i tesori del passato nell'oggi, ma la teologia deve farsi necessariamente anche profezia, deve guardare avanti. La memoria per il cristiano non è una laudatio tempore sacti, non è un guardare indietro e rimpiangere e dire si stava meglio un tempo quando c'era il Papa Re, si stava meglio un tempo nell'Europa dei monasteri, delle cattedrali. Per carità, ci sono anche dei movimenti nostalgici e conservatori all'interno del cristianesimo che seguono questa pista, ma non è la pista del cristianesimo, di alcuni movimenti al suo interno. Questa nostalgia, questo revanchismo, questo tentativo di rifare l'Europa delle cattedrali, dei monasteri e della cristianità imperante viene tentato da alcuni, ma non è la voce e l'intenzione della Chiesa, che guarda più alla profezia. Perché? Perché dalla rilettura del passato si impara a discernere il presente per costruire il futuro. Per noi cristiani, cioè, la memoria non è conservazione statica, conservazione che accumula passivamente dati, su esperienze, ma è una memoria dinamica che spinge in avanti, che non frena, che spinge in avanti. La memoria è realtà dinamica. È il motivo per cui la Chiesa, un'istituzione per certi versi megalitica, lenta, paragonata da Dante a un dinosauro, questo è il motivo per cui la Chiesa o le Chiese cristiane continuano anche a proiettarsi in avanti, ma solo se hanno il coraggio di tornare indietro, di purificare la memoria, come diceva il Papa soprattutto nell'anno santo del 2000, di ammettere gli errori del passato, di sapere imparare da questi errori, di saper chiedere perdono di questi errori, questa purificazione della memoria che va ad attingere alle fonti, che va ad attingere a una rivelazione, una parola che noi crediamo venuta da Dio, è una memoria dinamica che ci rende aperti al futuro e che ci permette di correggere la rotta, perché non sia la dimenticanza a guidarci, non sia l'opportunismo del momento, ma una memoria che si fa compagnia e che si fa profezia creando futuro. Grazie dell'ascolto.